giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le conseguenze del maltempo di ieri: resterà chiusa fino al termine dei lavori di bonifica dell'Eternit volato via da un tetto vicino la scuola elementare di Dignano, che ha anche subito danni alle grondaie. Un'ottantina i bambini a casa. A Pulfero un masso è caduto nel cortile di un'abitazione. Il natisone è in calo, ma la portata ieri aveva raggiunto i 320 metri cubi al secondo. A Tor Viscosa un albero è caduto su una vettura senza coinvolgere persone. Ultimi preparativi per l'arrivo della 108ª edizione del Giro d'Italia in regione. Domani si parte da Treviso e si arriva in piazza Transalpina tra Gorizia e Nova Gorizia dopo 195 chilometri. Il presidente del comitato di tappa Urbani, in corso alcuni interventi straordinari dovuti al maltempo di ieri, garantiti volontari a colmare le assenze tra le fila della protezione civile. Le previsioni del tempo per il fine settimana annunciano per domani ancora instabilità con aria fresca in quota, mentre finalmente domenica, con l'avvicinarsi dell'anno anticiclone, il tempo migliorerà. Rinnovato ieri pomeriggio il contratto dei lavoratori delle ferrovie che attendevano da un anno e mezzo 92.000 persone in tutta Italia. Oggi però lo sciopero, indetto da sigle minori, è stato confermato e molti treni sono stati cancellati. Sciopero anche nella scuola, a cui bassa adesione, ma anche l'assenza di un solo operatore ATA può provocare la chiusura di interi plessi. Un pezzo, un alettone di un aereo delle Frecce Tricolori coinvolto nell'incidente del 6 maggio a Pantelleria era stato messo in vendita su eBay. Lo hanno scoperto i carabinieri, che lo hanno anche rintracciato e recuperato, poiché essenziale per le indagini tecniche in corso. A giugno e luglio si terranno in Friuli Venezia Giulia le selezioni per formare 360 nuovi OS, figura fondamentale ma ancora sottovalutata. Il corso dura meno di un anno e garantisce un rapido inserimento lavorativo. Nonostante l'alta richiesta, mancano candidati e solo il 48% ha un contratto stabile. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Andrei Maruscic e Antonio Cagliazza. E dunque le conseguenze del maltempo di ieri. I vigili del fuoco sono ancora in attività in Friuli per la rimozione di alberi e rami spezzati dal vento. A Dignano la scuola elementare ieri sera era stata dichiarata inagibile dal sindaco e oggi è rimasta chiusa. Allagamenti in diverse località. A Pulfero un masso è caduto nel cortile di un'abitazione. Natisone in calo, ma la portata ieri ha raggiunto i 320 metri cubi al secondo, una massa d'acqua maggiore rispetto alla tragedia di un anno fa. A Tor Viscosa un albero è caduto su una vettura senza coinvolgere persone. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco di Udine in provincia per danni dovuti al maltempo. A Dignano una tromba d'aria, che si è poi spostata anche a buia, in pochi istanti ha creato danni ingenti al parco festeggiamenti in gestione alla Proloco e dove si stava preparando la festa della birra di luglio. Chiusa con un'ordinanza dal sindaco la scuola primaria, un'ottantina i bambini a casa. Danni alle grondaie e alla recinzione, le lezioni riprenderanno però una volta terminata la bonifica dell'Eternit volato da un tetto vicino. Qui, come in altri edifici privati a Dignano, il problema sono proprio le coperture in Eternit saltate per il vento. A Dignano, così come a buia, la protezione civile era in autosospensione. Blocco deciso in protesta dopo il rinvio a giudizio del sindaco di Preone e di un caposquadra per omicidio colposo a seguito del decesso di un volontario durante un'attività. Lo stop è in vigore in diversi comuni friulani, soprattutto in Carni nella zona collinare, finché non verrà modificata la norma che di fatto assimila i sindaci ai datori di lavoro. Ma vista la situazione a Dignano, ieri è stato revocato. Giambattista Turidano, sindaco di Dignano, dice che non era pensabile in quel momento che la protesta superasse l'emergenza. I volontari erano già pronti e da subito è iniziata l'operazione di messa in sicurezza e di recupero dei teli da sistemare sui tetti. A Cividale, dove si sono registrati allagamenti nei sotterranei dell'ospedale, in diversi scantinati e alcune strade, i volontari di protezione civile sono usciti, ma non in divisa, in forma privata, a tenere monitorata la situazione assieme ai tecnici comunali. La centrale della protezione civile di Palmanova ha dirottato le chiamate ieri direttamente ai vigili del fuoco. Cividale del Friuli, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. E la situazione meteorologica è un'incognita anche per il Giro d'Italia, che domani arriva a Gorizia e Nova Gorizia. La macchina organizzativa sta girando a pieno regime e l'altra incognita sarà l'impatto della mancanza di circa 200 volontari di protezione civile fermati dalla protesta contro la condanna del sindaco di Preone. Abbiamo sentito Paolo Urbani, presidente del comitato di tappa. In questo momento sono a Percotto di Pavia di Udine e sto guardando se ci sono ancora dei lavori da fare, gli spazzamenti e quant'altro. Sto facendo un piccolo sopralluogo, ma mi sto recando verso Udine in quest'ora, dove a mezzogiorno avremo un ultimo incontro previsto per la sicurezza. Qual è la situazione delle strade interessate dal percorso di domani? Ma le strade sono tutte in ottimo stato, la regione ha dato un finanziamento molto cospicuo per mettere a posto i manti stradali dove c'erano dei dissesti, FVG strade, tutte le DR hanno lavorato a puntino, anche i comuni ce l'hanno messa tutta e quindi saremo all'altezza della situazione. Sono in corso degli interventi straordinari per sanare i danni del maltempo di ieri? Sono in corso degli interventi straordinari che mi risulti in un unico comune, ma cercheremo di essere anche qui puntuali e quindi di avere la consegna dei lavori quanto prima. Oggi credo sistemeremo il tutto. E si sta cercando anche di ovviare alla carenza dei volontari della protezione civile, ricordiamo la loro protesta fino a una modifica normativa che li protegga da responsabilità eccessive, dove assolutamente non ci dovranno essere carenze. Sicuramente siamo riusciti a tempo di record a sostituire quasi tutti nella loro interezza, insomma, i volontari della protezione civile con volontari civici di altre associazioni, delle Proloco, delle associazioni combattentistiche, in particolare degli alpini, dei donatori di sangue, delle associazioni ciclistiche, insomma di tante altre associazioni, e quindi saremo anche lì in numero sufficiente per dare assistenza e sicurezza a tutto il tragitto. Ricordiamo, domani sì, si arriva in piazza Transalpina tra Gorizia e Nova Gorizia, però poi si riparte domenica da Fiume Veneto. Sì, sabato si arriva in piazza della Transalpina, al confine esatto tra Gorizia e Nova Gorizia, tra Italia e Slovenia, si arriva intorno verso le 5, mentre domenica mattina partiremo alle 11:30 da Fiume Veneto per andare in quel di Asiago. Io mi auguro veramente che ci sia una bella giornata di sole. E appunto noi sentiamo le previsioni del tempo per questa giornata e anche per il fine settimana con Francesco Sioni. Nel fine settimana una veloce saccatura porterà ancora aria fresca in quota, mantenendo quindi ancora instabilità sabato, mentre da domenica, con l'avvicinamento di un anticiclone, avremo condizioni più stabili. Quindi nella giornata di domani il cielo sarà variabile sulla zona montana, poco nuvoloso su pianura e costa. Dalle ore centrali sarà possibile qualche rovescio temporale, principalmente sulla zona montana, in particolare sulle prealpi carniche. Qualcuno di questi rovesci potrebbe in seguito interessare, comunque localmente, alcune zone della pianura e con minor probabilità anche della costa. La bora sarà debole, con al più raffiche moderate a Trieste, continuerà anche sabato a essere fresco di notte in pianura e sui monti rispetto al periodo. Domenica un miglioramento con maggiore presenza di sole, cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, venti a regime di brezza, ancora fresco al mattino, ma comunque si raggiungeranno massime attorno ai 23-24 gradi sulla pianura. E per chi domani volesse seguire la tappa del Giro d'Italia che termina a Gorizia e a Nova Gorizia, che tempo si deve aspettare? La tappa probabilmente comincerà con prevalenza di sole o al più qualche nube, e così continuerà per la maggior parte appunto del periodo. Solo nella parte finale, avvicinandosi al Goriziano, sarà possibile che qualche temporale dalle prealpi possa raggiungere anche le zone conclusive della tappa, ma comunque molto localmente, portando qualche temporaneo scroscio di pioggia. E la situazione al momento in regione? Il cielo è coperto, le temperature alle 11, Trieste e Pordenone 14 gradi e 5 decimi, Udine 15 gradi, Gorizia 15 gradi e 5 decimi, Sappada 8, Forni di Sopra, Piancavallo e Tarvisio 9 gradi e 5 decimi, Tolmezzo invece 13 gradi. Sull'Ussari 0 gradi, invece sullo Zoncolan 4 gradi e Lignano 15 gradi e 5 decimi. È stata una giornata di scioperi quella di oggi nei trasporti ferroviari e anche nella scuola. I treni sono interessati da un'astensione del lavoro di 24 ore. La fascia garantita va dalle 18 alle 21. Sentiamo la situazione. Stazione dei treni di Trieste. Passeggeri con il naso all'insù sperano di veder comparire sul display il proprio treno confermato. Invece, nella maggior parte dei casi, è cancellato. Non c'è. Quindi come farà? Aspetto per Udine e poi aspetterò per Conegliano. Uno è stato cancellato, adesso tra mezz'ora avrò il successivo, speriamo che non mi cancellino anche questo perché devo andare a lavorare. C'è chi è in attesa di una soluzione anche da un paio d'ore. Che treno dovevi prendere? 8:58. Non c'era? Non c'era, anche se in teoria doveva essere garantito dalle 6 alle 9. Nuova giornata nera nel trasporto ferroviario per lo sciopero proclamato dai sindacati autonomi USB Lavoro Privato e SGB. Uno sciopero che però arriva a poche ore dall'atteso rinnovo del contratto aziendale per 92.000 dipendenti del gruppo FS che attendevano da un anno e mezzo. Le sigle che hanno indetto lo sciopero non fanno parte del tavolo di trattativa, ad aver firmato invece tutti i tre sindacati confederali più Orsa Ferrovie, Fast e UGL. Antonio Pittelli, segretario generale CISL FIT. Va ad aumentare la sicurezza sul lavoro, in quanto sono aumentate sia le ore di formazione per tutti i dipendenti del gruppo FS riguardante la sicurezza, ma soprattutto vengono aumentate anche le ore di permesso per gli RLS. È un aumento del 18% medio per tutti i dipendenti che va ben oltre il tasso di inflazione annuale. Se nel trasporto ferroviario basta anche un solo macchinista per far saltare un intero treno, nella scuola succede qualcosa di analogo, basta la partecipazione anche di uno o due lavoratori ATA per tener chiuso un intero plesso o non permettere l'ingresso di alcune classi. Basta l'adesione allo sciopero indetto da CSLE e Conalpe. Sono 95 le sigle sindacali presenti nella scuola, 90 delle quali non raggiungono il 5% di adesione. Trieste, Nav Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. E i quasi 200 lavoratori della Tirso, in gran parte donne, si riuniscono in assemblea alle 14 a convocarla la Federazione dei Tessili della CGL di Trieste. È la seconda assemblea dopo il ritiro dell'interesse all'acquisto da parte del gruppo Roncadin. L'esito del confronto sarà il punto di partenza della discussione in regione con l'assessore al lavoro Rosolen e quello alle attività produttive Bini, che hanno convocato il sindacato per mercoledì nel pomeriggio. È stato rinviato alle 16 il vertice di maggioranza previsto in mattinata e che servirà a far chiarezza nel centrodestra regionale. Lo ha reso noto la regione citando come causa impegni del presidente Massimiliano Fedriga. Un faccia a faccia con i segretari regionali dei partiti nel palazzo della regione che segue il confronto che si è svolto ieri a Palazzo Chigi a Roma fra lo stesso Fedriga e la presidente del consiglio e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. L'obiettivo dell'incontro, aveva dichiarato ieri la presidenza della regione, è quello di stilare un documento di programma condiviso sull'azione di governo per il resto della legislatura, e cioè fino al 2028. Fedriga, uscendo dall'incontro, ieri aveva confermato l'intenzione comune di ricomporre la frattura, generata, come è noto, dalle dichiarazioni del ministro Ciriani di Fratelli d'Italia sulla gestione della sanità pordenonese. Una porzione dell'equilibratore lettone di coda di una delle frecce tricolori coinvolte nell'incidente aereo del 6 maggio scorso a Pantelleria era stato messo in vendita su eBay. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma che nel corso delle attività istituzionali di monitoraggio della rete internet si sono imbattuti in un annuncio insolito nel quale veniva offerto il componente di un velivolo MB-339 delle frecce tricolori coinvolto nell'incidente aereo. Gli investigatori, oltre ad acquisire le generalità dell'autore dell'annuncio, hanno anche appurato che il bene in vendita era di fondamentale importanza per gli accertamenti tecnico-specialistici, tuttora in corso. L'equilibratore, infatti, è una parte aerodinamica che consente a un velivolo di cabrare e di picchiare. La Procura Militare di Verona, titolare delle indagini in quanto territorialmente competente sul 313° Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivolto, sede delle frecce tricolori, ha immediatamente spiccato un decreto di perquisizione volto ad acquisire rapidamente l'alettone per poi porlo nella disponibilità degli specialisti. L'alettone è stato recuperato dai carabinieri della stazione di Pantelleria nelle vicinanze dell'aeroporto dell'isola, dove era stato già trovato dal cittadino che si è reso collaborativo nel corso delle attività di polizia giudiziaria. In regione ripartono le selezioni per diventare operatori sociosanitari, una figura sempre più richiesta ma ancora poco valorizzata. A giugno e luglio si terranno le prove per accedere ai corsi gratuiti che formano professionisti fondamentali nel sistema socioassistenziale. Diventare OSS il 5 e il 27 giugno e il 15 luglio in diverse località del Friuli Venezia Giulia ci saranno le selezioni dei corsi destinati a formare gli operatori sociosanitari. Le lezioni partiranno entro l'estate, una tornata che prevede di formare 360 OSS, sempre che ci siano altrettanti iscritti, dopo 1000 ore di formazione. Gli OS svolgono un lavoro silenzioso ma prezioso e sempre più necessario. In Italia ne mancano 70.000, in regione ne servono circa 700 all'anno. Eppure, nonostante l'alta richiesta, solo il 48% ha un contratto a tempo indeterminato, anche se negli ultimi 12 anni le assunzioni sono cresciute di 13 punti percentuali. Maria Vanto, assistente sociale e insegnante nei corsi di formazione. Il fatto che ci siano tante contatti a tempo determinato non è soltanto un problema per l'OS che lavora e che non può quindi progettare anche una propria vita personale con una base sicura, ma questo poi anche si traduce per l'utenza, perché sono pazienti questi con cui l'OS ha un rapporto a lungo termine il più delle volte, e il cambiamento, magari perché scade il contratto, non si può rinnovare, eccetera, anche questo ha una ricaduta anche sulla qualità dell'assistenza. La maggior parte degli OS lavora nelle case di riposo, è il 31%, seguono gli ospedali e le case di cura. Dal punto di vista della retribuzione, le paghe migliori si trovano nel pubblico, ma la varietà è tanta, anche troppa, per un lavoro che, vista la fatica fisica e psicologica, merita maggior riconoscimento. Tra gli OS solo 2 su 10 sono uomini e 3 su 10 sono stranieri. Più della metà hanno tra i 30 e i 50 anni. La regione finanzia corsi di formazione gratuiti che coprirebbero tutto il fabbisogno, ma gli iscritti non sono mai abbastanza, anche se il lavoro è sicuro. Il 98% viene assunto appena finito il corso, il 100% entro 2 mesi. Nel prossimo futuro il mercato soddisferà poco più del 30% delle richieste. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste è stata inaugurata la 14ª edizione di Mare Nord-Est, assieme alla quarta rassegna subacquea internazionale, con un ricco programma di incontri, premi e spettacoli che proseguirà fino a domenica. Ha circumnavigato l'Antartide in solitaria, senza soste e senza assistenza, prima donna a farlo, affrontando onde di 10 metri. Ha creduto di morire quando la sua barca ha disalberato e si è capovolta. Lisa Blair, australiana, racconta la sua impresa agli studenti dell'Istituto Nautico di Trieste attraverso le sue parole e il suo documentario, per diffondere una cultura che possa difendere il mare dalla sua insidia più grande, l'inquinamento. So for me it really started because I saw how much plastic was in the ocean and ho visto quanta plastica c'era nel mondo e ho pensato di voler fare qualcosa. Quindi navigando e facendo questo lavoro posso avere una voce e farla sentire. Ognuno di noi può fare la sua parte per contribuire al benessere del pianeta. So I'm currently campaigning to become the first person in the world to go non-stop around the Arctic Circle. La mia prossima impresa sarà circumnavigare il circolo polare artico, impresa mai realizzata, possibile solo perché i ghiacci si stanno sciogliendo. Lisa Blair è una degli ospiti di Mare Nord-Est, l'evento a Trieste che da 14 anni, attraverso lo sport, l'educazione ambientale, quella subacquea, la ricerca scientifica e la divulgazione, promuove un rapporto più consapevole e profondo con il nostro mare. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Giunta Comunale di Udine ha approvato il progetto esecutivo per un nuovo impianto di illuminazione del castello. L'obiettivo è valorizzarne geometrie e dettagli architettonici, rispettando il colore della pietra e riducendo l'inquinamento luminoso. Previsti proiettori LED di 3 tipi e effetti scenografici sul lato ovest. I lavori dureranno 60 giorni per un costo di 720.000 euro, coperti da fondi regionali. A breve sarà avviata la gara d'appalto. Parliamo della tornata referendaria dell'8 e 9 giugno. Uno dei 5 quesiti propone la modifica della normativa per accedere alla cittadinanza, accorciandone i tempi. Il quinto dei quesiti referendari per i quali si voterà l'8 e il 9 giugno riguarda la legge del 1992 che regola la concessione della cittadinanza agli stranieri. L'obiettivo del referendum abrogativo è quello di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza in Italia necessario per poter presentare la richiesta. Le ragioni del sì, secondo Stefano Santarossa, responsabile di Più Europa Pordenone. Il voto sì serve a legalizzare una situazione che oggi è fuori controllo. L'immigrazione che noi vogliamo legalizzare è quella legale. Chiediamo di dimezzare da 10 a 5 anni i termini per poter chiedere la cittadinanza. Ciò che avviene negli altri paesi europei. Se governiamo il fenomeno, riusciamo anche a far entrare nel mondo del lavoro, della scuola, in modo completo questi nostri cittadini, che sono cittadini che hanno diritto anche loro alla cittadinanza. Sul fronte opposto le forze politiche si dividono fra il no e l'invito all'astensione. Questa è la posizione di Forza Italia. Andrea Cabibbo, segretario provinciale Pordenone. Per Forza Italia è importante che questo tipo di materia venga trattato dal Parlamento e non sia oggetto di un referendum. Perciò la nostra posizione è quella di non andare a votare, quindi astenersi, come esercizio di un diritto che la stessa Costituzione prevede, visto che c'è un quorum che deve essere raggiunto, e appunto una legge, quella sulla cittadinanza, quella attuale, che garantisce un equilibrio tra la sicurezza e l'integrazione. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Teatro Verdi di Gorizia ospiterà alle 15.40 il concerto Go 2025 Fenice, progetto coordinato dal Comune di Venezia in partnership con l'Associazione delle Scuole di Musica del Litorale Sloveno. Si esibiranno i vincitori del concorso musicale transfrontaliero Nuove Generazioni Go 2025, ovvero gli alunni della Scuola Gabelli del Lido di Venezia, dell'Istituto Comprensivo Franca Ongoro e la Scuola di Musica della Slovenia di Ilirska Bistrica. Si uniranno nel canto due rappresentanze di giovani delle minoranze italiane Slovenia e Slovena in Italia. Il concorso ha visto anche la partecipazione di 21 classi veneziane e 9 slovene che hanno prodotto ciascuna un videoclip interpretato in sloveno e in italiano, una versione originale dell'inno della gioia di Beethoven, inno che sarà eseguito dai ragazzi accompagnati dall'orchestra del teatro La Fenice di Venezia. La raccolta di racconti, Ombre e segnali dal mare di Cristiano Caracci, un affresco di storie, di vicende avvenute sulle rive del Mediterraneo, dalla caduta di Costantinopoli alla guerra nell'ex Jugoslavia, si presenta a Udine nella libreria Tarantola alle 18. Prima giornata della 20ª edizione di Olio e dintorni, evento dedicato all'olio extravergine d'oliva made in Friuli Venezia Giulia e alla valorizzazione del patrimonio del territorio. Da oggi a domenica a Villa Maseri a Oleis di Manzano in provincia di Udine saranno in programma degustazioni di olio guidate, stand enogastronomici, attività ludiche e sportive sia per i bambini che per gli adulti all'interno del comprensorio, e come in ogni edizione non mancheranno momenti di approfondimento con l'intervento di esperti del settore durante i convegni tecnici. Tra questi l'intervento di Marco Stocco di ERSA FVG, che ci spiega di come l'annata del 2024, seppur scarsa in termini quantitativi, ci ha regalato un olio di qualità. Il 2024 è stata un'annata in chiaro e scuro, perché le zone costiere e della collina, avendo anticipato la fioritura, sono riuscite ad allegare in maniera soddisfacente, mentre tutta la zona della pianura, che nella terza decade di maggio ha subito delle piogge ingenti, purtroppo ha interferito sulla legagione, e questo ha determinato produzioni molto scarse. Mentre l'aspetto della mosca è stata molto positiva la stagione, in quanto la calura estiva ha fatto sì che inibisse questo insetto e quindi la qualità degli oli è stata molto buona. Abbiamo assaggiato in commissione per il premio dell'abate e praticamente tutti gli oli non presentano difetti e sono di qualità estremamente elevata. Invece in questa edizione quali sono i passaggi più importanti di questo programma? Sicuramente inizia nel sabato, dove ci sarà un corso di potatura e di gestione dell'oliveto, e poi ci sarà un susseguirsi di lezioni e di laboratori per riconoscere i pregi e i difetti di un olio di qualità. Importante poi il convegno della domenica mattina, dove ci saranno ospiti Marco Devetak della Slovenia, che parlerà degli eriofidi, un acaro che attacca i fiori dell'olivo, e Michele Morten dal Trentino, che parlerà appunto delle prove svolte da loro sulla rogna dell'olivo. Come si prospetta questa nuova annata? Le premesse sono molto buone, c'è una mignolatura eccezionale, quindi una quantità di fiori veramente importante, e anche le previsioni meteo per la prossima settimana, visto che è iniziata la fioritura, sono molto buone, e questo potrebbe favorire la legagione e di conseguenza avere finalmente un'annata di carica. Il sindaco di Fontana Fredda, Michele Pegolo, fa sapere che si sta concretizzando l'opportunità di ospitare nello stadio Tognon partite di calcio professionistico, finalità per la quale è stato dotato di infrastrutture apposite. In particolare è in via di definizione la concessione dell'impianto per incontri di Lega Pro, l'ex Serie C, della Dolomiti Bellunesi. Se arriverà il nulla osta della prefettura, questo comporterà l'impossibilità di ospitare le cerimonie del centenario della ASD comunale di Fontana Fredda. L'amministrazione comunale si dice a disposizione per supportare l'associazione sportiva dilettantistica nel trovare una sede alternativa. Nel Roseto del Parco di San Giovanni a Trieste, terzo appuntamento per la 14ª edizione di Rose, Libri, Musica, Vino, ospite il professor Mario Del Pero, professore di storia internazionale e di storia della politica estera statunitense a Parigi, che alle 18 dialogherà con la professoressa Elisabetta Vezzosi, docente di storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Trieste. La guerra del 15 e i friulani, un libro di Enrico Folisi, sarà presentato alle 17.30 nella sede della Società Filologica Friulana a Udine. A Prata lo scrittore Tullio Avoledo presenta il suo ultimo romanzo, Come si uccide un gentiluomo, la prima indagine dell'avvocato Contrada. Modera la serata Lucia Roman alle ore 20.30 al Teatro Pilleo a Prata di Pordenone. Sono le 12.55 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Bruno Montevecchi e da Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Samantha Gonna. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Andrei Marušić e da Antonio Cajazza. L'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.